Chim Hoàng Yến bị trói buộc bởi chính mình. Chương 25, 25, ngày và đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tao yêu fang lo phi so per un momento. E un donce sorriso e pap alangolo della sua bocca. Poi beso fort le labbra dell'uomo. Le labbra di fang yin erano troppo morbid e tenere. Sembrava che avessi in mano un peso di gelatina scivolosa. E non poteva fare a meno di modicchialo e rosicchialo. La semplice intersezione di labbra e labbra fa sentire le persone insoddisfatte del tatto chin ue fang ha paura che morde a la can morbida dell'uccellino. Un mormorio soddisfatto uschi do su labbra. Sollevò in casino di fang yin con una mano. E lancia mano non pote fare a meno di sollevarsi dall'alo della camicia. Fang yin non si vò, ma i suoi occhi erano dritti. Fissalo, gli li occhi e passò sul sopracciglio molto fit. Familiar e sconosciuto. In corpo di chin yue fang e ancora secondato dan di bo odo di te nero. C'è un po fastidio sau e felice. Fang yin an gio legerman la testa. Secondo di stringer chin yue fang. C'è ira e poggiata a lei. Apri legerman la bocca e sophia o la punta della lingua sale lingua delancio. Questa azione sembra ispirare l'interesse dell'altra parte. Poteva non vedo l'ora di far rotolare la lingua di fang yin e di indugiare con lei. La punta della lingua si arricciava intorno alla bocca e alla filecco in lato superior della parete interna. Era un modo familiar di bersiarsi. Fang yin ira un po distratto et ira raro prende l'iniziativa. La sua mano avo in close chin yue fang e lo tao strettamente an suo corpo. La punta della sua lingua non ira controllata dall'altra parte comprima. Ma inizio piuttosto ferro mang un tiro alla fun con chin yue fang. A chin yue fang è sempre piaciuto avere in controllo. Non importa quando è do. In basio intenso fece sanguinare in sangu. Chin yue fang senti un po' di intoppidamento sale punta della lingua. Kindi le sio con riluttanze le labbra dell'ancio. No, no, no, se basia di nuovo così. Temo che proprio non se la faccia più. Sebben chin yue fang abbia apprezzato la rara iniziativa di fang yin. Non gli ha fatto rinunciare a frequente mubai. Abbasso la testa per persuadere in passerotto sotto di lui. A questa vista, era un po' soffocato. Le labbra di fang yin erano rosse e gonfie per in basio. C'è ricordavano in calo dei papaveri, con ambergiu macchie da cua, campetali bagnati, la camicia era semi aperta, rivelando un grosso peso di pelciera, delicata come una barretta di fiori che aveva appena aperto i petali, e gli incantevoli e di sodi nei scapelli neri erano spassi sul spon e su calo. C'è ira, si diu sentemen sollevato, si o c'è rande le persone un po' insopportabili e lo segado nei suoi occhi. Splendido e amalien, la bellezza fragzai e ben educator sta rivelando in sec neu c'è pui fe quello c'è vui e non può smetter di ta e le persone arrivele in lato peccaminoso e confuso. Apparent mang vedendo l'esitazione e la lotta di chin yue fang. Fang yin an gio legerman in calo. Rivelando in suo calo bianco e fragzai. Le dita solete che vanno e si volavano nel cuo delle persone esitanti. D. Le labra ros putano una vers delicata e fascinan. Cosa stai excitando? Gliocai di chin uefang brillavano di una profonda seduzione. Cam un pescator sedotto za un mosto marino. O, baiso sinceramente le labra di fang yayin. Tesoro, se sei stato così sidiusang tatto in tempo. Va bene, non posso più sopportarlo. Non importa quanto lo sopporto. Non sono un uomo. Chin uefang rinunzio alla new tai resistenza. E rapidamente et elegantemente, chin uefang sentiva che in suo corpo doveva essere ancora in grado di resistere giorno e notte. Dopo tutto, fang yayin non si sarebbe veato fino alla seconda volta. Fang yayin ha evocato un sorriso indifferent. Quanti chili e quanti ta en conosci ancora? Đừng sao mà biển mạn. Đã nói từ đầu rồi. Không nghe thì thôi. Cách chương.